Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, non mi avete tradito, ci siete, vero? Sono le 11.09, buongiorno a voi da Nicoletta Carbone, Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Succede, è l'ultima cosa a cui pensa una persona quando comincia una storia d'amore stabile ed è anche l'ultima cosa che uno vorrebbe, eppure succede. Le statistiche dicono che il tradimento di coppia è assai più frequente di quanto in realtà venga raccontato dagli uomini e dalle donne che vivono una relazione di coppia. Ma perché succede, come succede, quando e quanto? Oggi cercheremo di capire tutto ciò che ruota intorno alla parola tradimento, una parola che quando entra nella vita della coppia sconquassa, un fenomeno che tra l'altro costituisce una delle prime cause di ricerca di consultazione psicologica. C'è addirittura uno studio del prestigioso Istituto Karolinska di Stoccolma, pubblicato su un'importante rivista scientifica inglese internazionale, che rivela che l'infedeltà, questa volta maschile, sarebbe legata ad un determinato gene. Il gene infedele si chiama RS334, ma forse non è solo una questione di DNA, e per questo motivo oggi ho chiamato con me ospiti provenienti da ambiti di studio e lavori differenti, a cui affido il compito di ricostruire il complicato puzzle di un'infedeltà di coppia. Prima di presentarveli però vorrei lanciarvi una sfida: potete raccontarci se siete stati protagonisti di un tradimento e soprattutto aiutarci a capire se il tradimento nella coppia significa la fine definitiva di un rapporto oppure può essere interpretato come un sintomo grave, da cui però può nascere una nuova fase della storia affettiva. Intanto saluto i miei ospiti, la dottoressa Sara Viola, psicologa e psicoterapeuta. Bentornata! Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno. Abbiamo qua in studio Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. In linea con noi una grande scrittrice, Benedetta Cibrario, che nei suoi due romanzi, pubblicati da Feltrinelli, ha tessuto e descritto in modo, direi, magistrale storie di tradimento. Ciao Benedetta. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, fine o nuova chance? Qual è il vostro parere? Lo lancio ai miei ascoltatori, che possono scrivere al 349-238-6666, ma lo chiedo anche subito a Sara Viola. Dottoressa Viola. Possiamo dire che le donne hanno meno strumenti per superare un tradimento di quanti non ne abbiano gli uomini. Da Medea, che tradita da Giasone uccide i figli e glieli imbandisce sul tavolo, ai giorni dell'abbandono della nostra filmografia attuale, tutto ci insegna che la donna non è attrezzata per perdonare, o meglio per superare un tradimento, che anche quando lo fa la ferita rimane indelebile. L'uomo, diciamo che sa perdonare più facilmente, forse anche perché tradisce di più. Sentivo, Nicoletta, che tu prima parlavi del gene del tradimento, non so se ci sia o meno, come medico non ne ho ancora avuto notizie certe, ma sicuramente Lacan diceva che l'uomo nasce poligamo, la donna nasce tendenzialmente monogama, ovviamente con tutte le eccezioni del caso. Alberto, fine o chance secondo te? Credo che sia un sintomo grave nella vita di una coppia e è però un'occasione nel momento in cui entrambi i partner hanno voglia, modo di lavorarci su e non lo considerano solo come una colpa da attribuire al traditore. Riprendo le cose molto giuste che ha detto la collega, la dottoressa Viola. Aggiungerei però un aspetto che in questo momento mi colpisce molto e che è quello di entrare nel tradimento con molta facilità, ripetuti tradimenti, un po' come se fosse una passione da esercitare, un allenamento, quasi un bodybuilding del tradimento, che è tipico anche di molte donne giovani, magari sposate da poco, che improvvisamente si cercano questo spazio ludico e con molti partner magari anche diversi, e a questo punto quello che penso io è che spesso è il sintomo di un'immaturità affettiva che fa magari entrare in una vita di coppia in un tempo che è molto prematuro rispetto al momento in cui invece bisognerebbe intraprendere questa scelta di vita. Benedetta, tu sei... Dimmi. No, io mi chiedo, ascoltandovi, mi chiedo in realtà se in qualche modo, oltre che certamente una immaturità, non c'è anche un bisogno, e questo parlo per tradimenti magari dopo un po' di anni che si è sposati o quando si è più in là con gli anni, per una sorta di bisogno di conferma della propria o femminilità o mascolinità, che è continuamente esposta in realtà a, così a, al giudizio degli altri in qualche modo, no? In una società, in un mondo dove siamo sempre più abituati a vedere donne belle, donne giovani, uomini, cioè tutto ci riporta a un certo tipo di uomo o di donna. Allora mi chiedo, bisogno di tradire, che poi è, in qualche modo nasconde un bisogno anche di piacere, no? O di avere confermato una sorta di apprezzamento, non potrebbe essere anche questo? E questo è sicuramente un bello spunto. Sicuramente il tradimento, l'abbiamo detto in apertura, le storie che sono arrivate anche in redazione, ieri abbiamo invitato i nostri ascoltatori a proprio a mettersi in gioco, parlano chiaro. È veramente una, un terremoto emotivo da cui difficile riprendersi, ma di cui alcune coppie riescono poi a mettere in piedi i cocci, a ricostruire forse una storia. Che è successo? Perché mi hai ingannata così? Perché? Calmati! Devi calmarti, calmare la bambina! Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato? Montagna! Cioè? Sono stato con Adriano! Con Adriano? Con Adriano, con Adriano, te lo giuro! Sei un bastardo, bugiardo, schifoso, mi fai schifo! Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui! Pronto, lui! Lui ha scoperto tutto, non sono stato io! Che fine fa adesso la fiducia che avevo in te? Tutti i sogni che avevamo, che fine fa adesso? Giulia, non ho fatto niente di male. Chi è questo con cui sei uscito? Non è nessuno. Voglio sapere chi è Carlo. Giulia, non succederà mai più, però... Che cazzo è questa? M'hai tradita? La verità, Carlo, m'hai tradita. Dimmelo! Solo un bacio. No! Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo! È una, la rabbia esonda in questa scena del film di Muccino, sono veramente tutti per aria, mi viene un po' di ansia, ma io cercherei di andare a tratteggiare il profilo del traditore, quello della traditrice. Alberto, a te affido il traditore maschio. Ma io direi che senza età, perché sono... tradiscono a tutte le età. Alcuni profili che stanno proprio nelle storie di vita poi dei traditori. C'è il traditore seriale, cioè quello che in qualche modo si è accasato, si è dato un profilo sociale con una coppia ufficiale e poi però ogni occasione buona, e quindi effettivamente cerca tante diverse storie, spesso in modo quasi compulsivo, lo fa quasi come se fosse uno sport, è nella sua natura, è proprio nel suo DNA. C'è il colui che entra in un tradimento perché sta vivendo una grave crisi di coppia e improvvisamente in un'altra donna trova una sorta di accudimento. E poi in realtà rimane spaventosamente confuso perché si accorge che è entrato in un'altra storia, ma in realtà ha bisogno di risolvere la storia che invece si trova alle spalle. Quindi è proprio quello con i piedi in due scarpe, spesso sospeso e non sa cosa fare. E poi c'è quello che effettivamente a un certo punto della propria vita è stanco della sua storia ufficiale, entra in una storia parallela e cerca di tenere in piedi tutte e due le cose. Da una parte, per così dire, la famiglia, dall'altra la passione, l'amore e tutto il resto, e di nuovo anche... senza le seccature del quotidiano. Dottoressa Viola, e le donne che tradiscono? Allora, sono d'accordo, perché bisogna essere sempre in due, no? Sì, gli uomini infatti per difendersi dicono: ma non saremo da soli quando troviamo il nostro amore, qualcuno con noi c'è. E ascoltavo prima quello che diceva Alberto Fellai quando parlava delle donne che anche loro fanno, come dire, gli sciupa uomini, cioè le ginnaste, come le chiamo io, quelle che tradiscono sessualmente, reiteratamente, anche loro senza alcun coinvolgimento affettivo. Diciamo che questo è un nuovo profilo della traditrice giovanissima che cambia partner sessuali per suo piacere o per suo divertimento, ma classicamente la donna tradisce sempre un po' anche con il cuore, ed è per questo che tendenzialmente i tradimenti femminili sono più pericolosi, perché è vero anche che a volte ti fanno traslocare altrove. Io ho un paziente avvocato che mi dice sempre che quando una donna va da lui e gli dice io mi voglio separare, lui apre la pratica. Se ci va un uomo, lui temporeggia, perché spesso l'uomo invece torna a casa o rimane a casa. Per cui c'è la traditrice per pura ginnastica erotica, la traditrice sentimentale, che è quella classica e la più pericolosa, e poi c'è la traditrice per vendetta, quella cioè che ha subito e vuole restituire pan per focaccia, senza assolutamente avere alcuna vero beneficio. Benedetta, dai profili dei traditori descritti dai nostri esperti, e quale appartengono i protagonisti dei tuoi due romanzi, Benedetta? Ma nel primo romanzo, Il rosso vermiglio, in realtà c'è un, non, non è un vero tradimento, perché lì abbiamo un matrimonio combinato, quindi questa donna si tradisce il marito, nel senso che però lo tradisce con la prima persona di cui si innamora, la prima della sua vita, la prima è anche l'ultima per certi versi. Nel secondo invece abbiamo, direi, un tradimento, abbiamo una figura di tradimento dove lui è il traditore seriale, io l'ho pensato un po' come un traditore seriale, sì. Mentre la lei è la traditrice che si innamora, insomma. Quello che è chiaro è che in realtà qualunque, è difficilissimo poi in letteratura parlare di tradimento, no? Perché è un tema assolutamente abusato e poi parlare di questo dopo Madame Bovary è difficile, ecco. Però ce la si fa, anche perché il tradimento appassiona. Leggere il tradimento o sentire il tradimento degli altri è un modo anche un po' per scotomizzare la paura. Tutte le cose che ci fanno paura noi preferiamo leggerle e sentirle dagli altri, ci dà una sorta di protezione. Scrivere, come dicevi tu, una storia di tradimento è una bella sfida per uno scrittore, ma su quale aspetti si fa leva? Che cosa deve avere una storia di tradimento perché piaccia, perché così avvinghi il lettore? Ma in realtà ripeto, è un tema difficilissimo perché è talmente tanto trattato nella letteratura da sempre che in realtà si rischia sempre di dire delle grandi banalità, no? Quello che in qualche modo avvince forse è il chiedersi ma vediamo come se la cavano questi qua che tradiscono in qualche modo, cioè mettere un personaggio sotto pressione in qualche modo è, direi, il motore, no, di ogni storia, di ogni romanzo che funzioni, di ogni meccanismo narrativo. Il tradimento è uno di questi, poi ci sono molti altri modi per mettere dei personaggi sotto pressione, ma in qualche modo li costringi un po' a gestire una serie di situazioni che sono senso di colpa, la menzogna, il tradimento può avere conseguenze o non averne, insomma, in questo consente un'evoluzione di un personaggio nel corso della scrittura e quindi alla fine una cosa che è più interessante da leggere, insomma. Benedetta, io so che tu devi scappare, ti saluto e ti ringrazio e ti aspettiamo presto. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, arrivederci. E noi continuiamo a parlare di tradimento con Paolo, che ci chiama da Vercelli all'800 24 00 24. Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Niente, la nostra è una coppia, una convivenza felice, 12 anni, 3 figli. Reciprocamente ci sono stati degli episodi che ci siamo confessati, diciamo che ne abbiamo parlato a lungo, ma riteniamo entrambi, è una cosa condivisa, che tolti tutti i retaggi culturali, etici, morali, religiosi, non ci sia nulla di più naturale del tradimento. Ovviamente nell'ambito del rapporto familiare, se l'obiettivo è avere una famiglia e dei figli, sicuramente i figli sono prima di tutto e tutti i nostri sforzi sono rivolti alla famiglia. Poi, per quanto riguarda altre cose, come nel nostro caso il sesso, andiamo in altri ambiti che non hanno nulla a che vedere con tutto quello che può essere la contrattualistica di un matrimonio o di una convivenza atta a portare avanti una famiglia. Quindi Paolo, lei lo mette in conto come uno delle, se vogliamo, degli ingredienti per far funzionare la famiglia? Ma diciamo che nel nostro caso è successo così, probabilmente la nostra coppia sarebbe scoppiata senza tradimento. Non biasimo chi riesce ad avere una vita di coppia in eterno condita con la fedeltà. Penso che in passato questo fosse molto più semplice perché c'erano meno stimoli, c'erano regole forse più rigorose, c'era un rapporto con la donna che era sbagliato ma era comunque vessatorio. Nel momento in cui questo rapporto si è liberato, diciamo che io ritengo di poter dire con un'assoluta certezza, anche perché faccio un lavoro che mi permette di essere a contatto con numerose persone, di non aver mai incontrato un uomo nella mia vita che non mi ha detto di aver tradito almeno una volta la propria partner o moglie. Poi ci può essere tranquillamente, non voglio dirgli no, però se vogliamo essere scevri dall'ipocrisia, e questo si sta raggiungendo anche per le donne peraltro, se uno ha un rapporto di amicizia con donne o frequenta ambienti che sono prettamente femminili, quello di cui si viene a conoscenza è questo. Poi voglio dire, se si riesce a fare una dicotomia tra quello che è il rapporto di coppia atto alla creazione di una famiglia con prole o un rapporto di coppia che è vicendevolmente sussidiario per il supporto reciproco, diciamo, durante la vita, si riesce a capire che nel momento in cui si fa questo discernimento, quelli che sono aspetti che vanno oltre sono collegati forse al nostro aspetto più istintivo. Paolo Alberto prende un po' il tradimento come un integratore, no? Sì, racconta in realtà un vero e proprio modello di coppia aperta, ma volevo chiedere a Paolo se nonostante i tradimenti che sono stati confessati l'uno all'altro, loro continuano ad avere un'intimità di coppia, oppure la loro famiglia è di fatto solo una sorta di micro società che permette di essere anche genitori. Paolo? Sì? La domanda era questa, cioè voi... Sì, ho sentito la domanda, ho sentito. No, diciamo che la sessualità è migliorata, diciamo che... Paolo è caduto, magari lo riprendi. Eccolo, di nuovo l'abbiamo ripreso. Beh, quindi una coppia, quella di Paolo, una coppia aperta, e Max mi scrive: se c'è accordo non è tradimento. Questa è una lettura di coppie particolarmente aperte, bisognerà vedere, magari saranno felici. Paolo, magari poi nel corso della trasmissione lo possiamo riprendere. Abbiamo indagato con Benedetta Cibrario la difficoltà di raccontare un tradimento, di non essere banali, perché di tradimento si è sempre parlato. Io vorrei passare dalla penna al microscopio. In linea con me ho il professor Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albese e professore all'Università di Maastricht. Caro professor Perna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Qui serve proprio conoscere il parere della scienza, perché la ricerca ha studiato questo fenomeno ed è riuscita a capire cosa succede nel cervello di chi tradisce. Abbiamo appena sentito un racconto di Paolo in cui tutti e due partner sembrano d'accordo e accettano il tradimento, no? Uomo avvisato si dice mezzo salvato, qua forse la rima dovrebbe essere modificata. Ma professore, lei che cosa mi racconta scartabellando le ricerche? Scartabellando un po', ieri mi sono informato, come sai, do un'occhiata prima alla letteratura mondiale sull'argomento. Allora, quello che c'è di più è la distinzione tra poligamia e monogamia, o meglio la tendenza alla monogamia e la tendenza alla poligamia. Alcuni studi suggeriscono che questo dipende da una distribuzione differente di alcuni recettori per due ormoni importanti per l'attaccamento, che sono l'ossitocina e la vasopressina. Questi ormoni sono importanti in regolare le contrazioni della gravidanza, l'allattamento, e sembra che siano fondamentali per creare quel senso di attaccamento al partner. Esistono studi magnifici fatti su alcuni roditori che hanno proprio un profilo differente. Uno è monogamo, l'altro è poligamo, quindi uno in qualche maniera è fedele, l'altro è traditore. La differenza è che noi, se trasferiamo questo ormone da uno all'altro, modifichiamo quindi i livelli plasmatici, abbiamo un cambiamento del comportamento. Quindi c'è qualcosa di biologico? Sì. Ecco, io voglio dire una cosa importante. Non è che la biologia determini il comportamento. La biologia predispone a un comportamento. Poi esiste una decisione individuale che ci permette di scegliere. Quindi la libertà di scelta non è condizionata in maniera determinante dalla genetica, almeno per quanto riguarda il tradimento. Vedere invece che altre volte il motivo della rottura è stato un po' più delicato, questioni legate per esempio alla fedeltà, vissuta dall'uomo e la donna in maniera diversa, perché una donna quando si fidanza all'inizio è fedele, può arrivare anche uno tipo Raul Bova, ma con la bava, Raul Bava, con un mazzo di fiori in una mano e il mocio vileda nell'altra, che se ti chiede me la dai, tu gli rispondi no, sono fidanzata, un uomo no. Un uomo prima cede, poi si fa beccare da te apposta per lavarsi insieme a te la sua coscienza, ma in quel caso non andrebbe lavata ma scarta vetrata, e quando tu gli chiedi perché, lui ti guarda con la faccina da piccola fiammiferaia d'inverno, con gli occhi a chiesa gotica, e ti dice: credimi, io non volevo, è stata lei. Grandissima Geppi Cucciari. Alberto si sta ammazzando dalle risate, noi invece andiamo, no, gli facciamo prendere fiato, andiamo a sentire i mercati. 800 24 00 24, ricordate il nostro sondaggio, devo dire che i numeri sono già la raccontano. Tradimento, fine di una storia oppure chance per una rinascita? E siamo tornati insieme. Tradimento, ma è davvero inevitabile? Alberto, siamo a che punto siamo nel nostro sondaggio? Ma guarda, arrivano tre, secondo me, tipologie di messaggi. Ne sono arrivati molti. Da una parte c'è proprio il traditore seriale che ribadisce la sua posizione. Da una parte ci si sposa, dall'altra fuori dalla coppia si fa un po' quello che si vuole. Ci hanno scritto molti ascoltatori che in realtà proprio attraverso un tradimento hanno in qualche modo reincontrato un nuovo equilibrio di coppia su un livello decisamente più evoluto. E poi ci sono le storie per cui il tradimento ha chiuso per sempre la storia di coppia. Direi che questi tre tipi di messaggi si equivalgono. Professor Perna, io vorrei andare al gene. Mi scrive Graziano, 23 anni di matrimonio tra alti e bassi, ma mai tradito mia moglie. Ho rinunciato a centinaia di occasioni nonostante io abbia lavorato nell'est Europa negli anni 80-90, questo mi dice. E secondo me è una questione genetica, come da ultime scoperte. Io a questo gene, insomma. Guarda, parlare di gene della monogamia direi che è eccessivo. Quello che è vero è che la distribuzione di quei famosi recettori di cui ho parlato prima dipende da fattori genetici anche, per cui esiste una tendenza genetica probabilmente alla monogamia, alla poligamia, quindi al tradimento. Ovviamente una tendenza vale per mille altre cose nella vita, e quindi sicuramente l'elemento decisionale volontario è cruciale, quindi non si può dire io tradisco perché sono costretto dai miei geni, questo è scorretto. Questo non potete dirlo. No, ecco. No, questo direi che è perché una cosa di solito che gli uomini dicono, ma non è come pensi, sono stato costretto, non credevo, no? No, bisogna avere l'intelligenza di conoscersi. È ovvio che se noi avevamo uno stato ormonale delicato, dire, se io non ho rapporti sessuali per lungo tempo, è chiaro che dal punto di vista maschile magari il livello di testosterone è elevato, che mi porterebbero a cercare una partner più facilmente, ma questo vale anche per la donna. Bravo. La zona della parte di il momento dell'evoluzione, dell'ovulazione è la fase più delicata in cui ci sono più stimoli sessuali, quindi l'intelligenza della coppia è riuscire a soddisfare nei tempi giusti, nei momenti giusti il proprio partner. A quel punto lì ci vuole la volontà. Se io sono uno superficiale, tradirò, no? Se io sono una persona che ha una mia etica, una mia morale, cercherò di resistere alle tentazioni. Però mi ricordo che si è parlato molto di tentazioni nella storia e nella letteratura. Le tentazioni ci sono, noi siamo degli esseri superiori capaci di mettere la volontà. Professor Perna, grazie per questo aggiornamento della ricerca scientifica che insomma ci fa piacere conoscere, ma allo stesso tempo ci riporta, no, al tema di oggi, al tradimento, quanto conta l'affinità di coppia, quanto, Alberto, la maturità. Dottoressa Viola, lei riguardo al tradimento, io ad esempio personalmente non riuscirei a perdonare, devo dire che pur leggendo i messaggi di ascoltatori che mi dicono io sono rinato, abbiamo ricominciato, a vederla così, e soprattutto non vorrei saperlo. Ma io condivido, Nicoletta, perché forse se esiste un gene del traditore, così forse esiste un gene del perdono, e la donna su questo, il perdono e il tradimento, diciamo che geneticamente è debole, cioè non ce la fa, anche quando ce la mette tutta, accetta, va avanti con la pericolosa tendenza però di mettere lui sul banco degli imputati. Quindi stiamo insieme, ma d'ora in poi ogni tuo pensiero, ogni tuo sorriso, ogni tuo sguardo verrà processato e analizzato in termini negativi. Il problema secondo me però va allargato, perché ho sentito con interesse le telefonate degli ascoltatori, queste nuove coppie che si confessano il tradimento anche reiterato e che diventano così amici, così complici da essere anche traditi e traditori alla luce del sole. Io penso che questo ci porti verso la morte della passione e dell'amore, perché se è vero che forse le coppie diventeranno molto più evolute, molto più aperte, molto più solidali, in questo modo sicuramente saranno coppie non legate dall'amore inteso come passione, perché qui a passione e tradimento veramente non vanno mai a braccetto, non stanno insieme. Andiamo a Milano, anzi restiamo a Milano, abbiamo Maurizio, buongiorno. No, è caduto, mi sta dicendo Fabio Cantadori, ma noi invece è in piedi Antonio, no? Antonio, lei non mi cada, No, ci sono. Ecco, beh, una garanzia. Buongiorno a lei intanto. Buongiorno, io chiamo da Napoli, ho 26 anni, non sono sposato. Da premettere che non sono per niente d'accordo con l'ascoltatore, quello di Paolo. Sì. che diceva che in cui avevano una coppia in cui entrambi si confessavano il tradimento, anche perché credo che lui diceva la coppia è rimasta così unita proprio perché ci siamo confessati. Sì, diventano una coppia di genitori, di amici, come diceva la dottoressa Viola, ma insomma la passione non è più una coppia, dice Antonio. Ma lei che cosa è successo, Antonio? Lei è un traditore, un tradito, oppure no, ha trovato l'amore stabile? Sono un tradito e anche molto di recente. Come sta? Ma attualmente abbastanza bene, perché poi ho ritrovato una nuova compagna, però sono passati circa 9 mesi. Erano 9 anni che stavamo insieme, avevamo addirittura dato l'anticipo del matrimonio. E lei improvvisamente cambiò dalla sera alla mattina, cambiò dicendo che non stava più bene, non aveva più determinate attenzioni, determinate cose, e poi c'erano delle telefonate notturne che ho scoperto, e lei ha sempre negato questa cosa. Poi dopo mi ha tra virgolette lasciato perché diceva che non stava più bene con me, e poi ho scoperto che stava con un'altra persona, e lei, appena io ho scoperto questa cosa, mi ha richiamato per cercare di ritornare indietro. Però io sinceramente non ce l'ha fatta, Antonio. No, perché se dopo 9 anni che siamo insieme è pagato un anticipo di un matrimonio, lei mi fa una cosa del genere, io con quale fiducia riprendo una storia del genere e mi sposo e vado avanti? Se me lo rifà nel matrimonio, che diventa una cosa molto più seria, con figli, cose del genere, non sarebbe poi, diciamo, l'ideale. E quindi per lei questo tradimento, lei l'ha scoperto anche dopo, perché all'inizio la sua compagna negava, però ha segnato proprio alla fine, e anche invitato a riprendere la relazione, Antonio dice non ce la faccio. Dottoressa Viola. Questa è la reazione, diciamo, classica di chi era innamorato, di chi amava. Non è tanto una questione di perdono o di capacità di accettare le debolezze dell'altro, è proprio che quella sorta di incantesimo, di verginità, insomma, che l'altro ha ai tuoi occhi, di assoluta, quasi, come dire, affidabilità totale, viene a mancare. Dopo un tradimento non si è più quelli di prima. Una coppia è vero che può andare avanti, ma con delle ferite, con delle ammaccature che tolgono completamente la capacità di abbandono insita e desiderata da chi è innamorato. C'è da dire che quando si dice ma il tradimento fa bene alla coppia, fa bene alla coppia, Nicoletta, se non è rivelato, cioè se una persona è dalla mia, ecco, è dalla mia, a caricarsi assolutamente, fuori, a portare positività dentro, allora fa bene. Buongiorno Nicoletta, mi scrive Fabrizio, io vorrei tradire mia moglie dopo 6 anni di matrimonio per mancanza di desiderio da parte sua di farlo. Cosa dice Alberto? Mettiti nei panni del nostro ascoltatore, perché sono tanti i messaggi che mi dicono tradimento, lei o lui praticamente non mi considera più, non abbiamo nessuna intimità, sono giovane, oppure altri mi scrivono adesso è troppo, sono 15 anni di matrimonio, mi butto. In questo caso, secondo me, significa trasformare il tradimento in un sintomo di un altro sintomo, cioè è molto importante dentro una coppia in cui c'è un calo del desiderio, ma ne avete parlato molto bene ieri, affrontare il problema primario, originario, cosa sta succedendo. E in questi casi io consiglio agli ascoltatori di verificare la possibilità di fare una terapia di coppia, perché spesso ha proprio risultati molto molto potenti, ecco. E il rischio è che entrando in un tradimento uno non riesce più a ritornare invece al problema originario, e quindi è una sorta di via di fuga che non tocca però il cuore reale del problema che la coppia sta vivendo. Per cui io direi a Fabrizio che non lascerei la moglie col suo calo del desiderio e cercherei un'alternativa altrove, ma lavorerei con mia moglie per risolvere in modo importante quello che ci sta succedendo. Andiamo a sentire adesso il traffico, che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Poi mi piacerebbe farvi sentire alcune delle lettere che sono arrivate in redazione. Vi ricordo anche, me lo ricorda sempre Laura Vanossi, il nostro profilo Facebook, potete scriverci, essere benessere @radio24.it, sono arrivate, per cui noi adesso andiamo a sentire il traffico, poi voglio farvi sentire una lettera. Dottoressa Viola, prima di ascoltare la lettera, una domanda che ci arriva via SMS: ma si può amare due persone? Dai messaggi, anche poi noi insomma viviamo poi una vita normale, lo sappiamo, che ci sono delle persone, io parlo di uomini e di donne, non è che dico che solo gli uomini tradiscono, tradiamo anche noi donne, però ci sono storie di persone che hanno una relazione stabile e una seconda relazione stabile. Ancora una volta, come due mogli o due mariti, insomma, e la domanda sorge spontanea: si può amare due persone contemporaneamente? Dobbiamo ancora una volta ripassare un po' che cosa significa amare, che cosa significa provare un sentimento così travolgente e profondo come un amore, con la passione, con la sessualità, con tutte le dimensioni che un amore implica. Non si può perché non hai un'energia sufficiente per amare contemporaneamente due persone, e non si può anche perché il tuo io, quando è coinvolto e ingaggiato in una relazione d'amore, non ha spazio per nessun altro, per nient'altro, quasi nemmeno per i figli, quasi nemmeno per il lavoro, quasi nemmeno per nulla. Figuriamoci se si possono provare contemporaneamente due sentimenti di questa portata così totalizzanti. Ci si può illudere a volte di amare due persone quando in realtà non se ne ama nessuna. Si prova un amore, un bene profondo, un affetto per una delle due e un'emozione, un'infatuazione, un innamoramento per l'altra, ma l'amore è uno. Andiamo a sentire la lettera che è arrivata in redazione. Sono disperata. Dopo 30 anni di matrimonio, e a me verrebbe da dire felice, mio marito in 2 mesi ha fatto le valigie e se n'è uscito di casa. Non è come potreste pensare, non ha perso la testa per una più giovane di 20 anni. La sua nuova fiamma ha la mia stessa età. Non è una bellissima, solo condivide con lui la passione per l'arte. Si sono conosciuti perché appartengono allo stesso circolo culturale. Non ho mai seguito mio marito nelle sue gite per mostre d'arte. Quelle domeniche io ne approfittavo per incontrarmi con amiche che abitano lontano, ma non avrei mai immaginato che questo mi sarebbe costato la fine del matrimonio. I miei figli sono sbigottiti quanto me. Lui dice che dopo una vita di lavoro e sacrifici è ora per lui di vivere di passione. E dice che la sua nuova compagna è appassionante in tutti i sensi. Mi sento come un vestito dismesso. Sono incapace di fare qualsiasi passo in avanti nella mia vita. So solo guardare indietro e provare una tristezza infinita. Ma davvero la mia storia d'amore può considerarsi finita per sempre? Alberto, Galeotta fu la mostra d'arte. Ma si potrebbe anche pensare così, ma io credo invece che la storia ci lascia intuire che c'erano tanti segni disseminati probabilmente in questa lunga storia e non stavano funzionando. A me la frase che colpisce di più è quando la nostra ascoltatrice scrive: lui dice che dopo una vita di lavoro e sacrifici è ora per lui di vivere di passione. E secondo me dietro questa frase c'è forse che la vita di famiglia, di coppia, era diventata una sorta di dovere, svuotato dalla dimensione, la passione, cioè dalla dimensione del piacere. E mi sento di dare un consiglio perciò a chi sta vivendo proprio una relazione di coppia stabile, quindi sta interrogandosi su qual è la condizione che rende possibile una buona manutenzione della vita affettiva. La domanda è: quanto piacere c'è, è rimasto nella vostra vita di coppia, nonostante il lavoro, gli impegni, i figli, tutta quella montagna di dover fare che è necessaria e insostituibile. Ecco, quali sono i vostri spazi di piacere? Perché è da lì che in qualche modo si capisce quanto state davvero mantenendo bene la vostra dimensione di coppia. Giusy ci chiama da Milano. Buongiorno Giusy. Buongiorno. Salti dentro anche a lei al nostro sondaggio. Il tradimento chiude o può far iniziare una storia, un rinnovamento? Ma secondo me può far iniziare un rinnovamento. Se c'è veramente un discorso di pentimento per chi ha sbagliato e un prendersi coscienza di che cosa ha portato a quello. Perché anche come dalle ultime cose che stavate dicendo, effettivamente se come lei all'inizio non pensavo possibile di poter continuare con mio marito, devo dire che invece dagli errori, se si impara, può nascere qualcosa di molto più profondo e poi credo che forse nel nostro caso, io mi sono fatta anche un'analisi di coscienza, di sicuro il nostro rapporto alla fine, anche un po' per colpa mia, presa dalla quotidianità, magari si perde di vista, non si hanno più energie da investire nella coppia, diventa tutta un'abitudine e questo non fa bene. Grazie a Giusy. Vorrei un commento prima di chiudere questa puntata dalla dottoressa Violo, una lettura, quella di Giusy, interessante, no? che ci racconta quanto dopo un tradimento una coppia si possa riprendere un po' in mano. Io immagino con grande fatica, con grande impegno, ci deve essere veramente un grande amore dietro, perché è difficile reinventarsi, però ce la si può fare. Dottoressa Viola. Una lettura importante quella di Giusy, perché diciamo che dà l'unica ricetta possibile per superare davvero un tradimento, e cioè ricordarsi che un tradimento è un problema di due, non c'è uno che ha tradito e l'altro che ha subito, nei fatti è così, ma in realtà ciò che ha portato al tradimento è il passo a due della coppia, cioè il tradimento è responsabilità e dolore di tutti e due. Se si arriva lì è perché qualcosa non ha funzionato nella danza di coppia, e quindi riprendevo sicuramente quello che si intravede nella lettera che tanto bene dice prima Alberto Pellai: si può prevenire un tradimento se si mantiene aperto lo spazio del piacere condiviso tra marito e moglie. Noi donne forse dobbiamo farci un esame di coscienza preventivo, perché ogni tanto siamo proprio anche un po' noi a spingere il nostro uomo dentro la noia che poi lo porta ad uscire di casa, e quindi rimaniamo un po' le amanti misteriose di nostro marito o del nostro partner. Allora, accettiamo sicuramente questo invito, dottoressa Viola, lavoreremo su questo aspetto. Ringrazio la dottoressa Viola, Alberto Pellai, ci sentiamo sabato, noi domani, scrivetemi anche su Facebook. Buona giornata.